L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti alla nostra centrifuga di notizie, personaggi, commenti che hanno animato quest'ultima settimana, cominciata sabato scorso 16 maggio e che si è conclusa ieri venerdì 22 maggio. Come sempre abbiamo dovuto fare delle scelte, magari sacrificare alcuni fatti importanti che meritavano di essere citati, e per contrasto abbiamo dato invece ampio risalto ad altri. E come al solito il nostro racconto si snoderà grazie ai servizi già trasmessi nei GR di Radio 24. Sabato. Torino violenta sembra il titolo di un film degli anni 70, in realtà è un titolo che ho letto nelle cronache che arrivano dalla grande città piemontese in questi giorni, una città al centro dell'attenzione per tantissimi motivi, peraltro diversi tra di loro. C'è tutta la vicenda della Fiat, c'è la Fiera del Libro che finisce proprio all'inizio di questa settimana, persino si parla molto di calcio perché ci sono i malumori e gli esoneri in casa Juventus. Ma ci sono poi episodi che fanno preoccupare e forse devono far riflettere sulla tenuta sociale del nostro paese in questo periodo di grave crisi. Cominciamo proprio dai fatti di sabato scorso, quando a Torino il sindacato si raduna per affrontare il nodo Fiat. Il racconto è della corrispondente Silvia Alparone. Una dura contestazione ha chiuso ieri la manifestazione dei lavoratori del gruppo Fiat, che ha raccolto a Torino, secondo gli organizzatori, fra le 10.000 e le 15.000 persone. All'Ingotto, dove si sarebbero dovuti tenere i comizi conclusivi, un gruppo di Cobas dello stabilimento di Pomigliano d'Arco ha interrotto i comizi, preso la parola e ha aggredito fisicamente Gianni Rinaldini, segretario generale della FIOM. Lo stabilimento di Pomigliano, insieme a quello di Termini Imerese, potrebbe essere ridimensionato. A sfilare ieri c'era anche il sindaco della cittadina campana, Antonio Della Ratta. Sono il sindaco di Pomigliano d'Arco. Noi siamo qui come siamo stati altre volte e saremo, perché Pomigliano d'Arco non deve essere né chiuso né tantomeno ridimensionato. I sindacati hanno chiesto alla Fiat e al governo un incontro subito prima dell'accordo con Opel, minacciando lo stato di agitazione degli stabilimenti con il blocco degli straordinari e della flessibilità. Il giorno dopo, anzi già il giorno stesso, è un fiorire di commenti e di analisi, alcuni sono davvero incendiari, altri invece invitano alla calma. Per esempio il diretto interessato Rinaldini, bisogna dirlo, parla subito di un gruppo di semplici teppisti, quindi cerca di minimizzare l'accaduto. Altri invece scomodano addirittura paragoni importanti, ritornano agli anni di piombo e alla celebre contestazione che subì Luciano Lama all'Università di Roma, siamo addirittura nel 1977. Sentiamo però la difesa di quelli che finiscono sul banco degli imputati, cioè i Cobas, e poi le reazioni di Confindustria, sindacati e politica. Tutto questo nel servizio di Elisabetta Fiorito. Negano l'aggressione i Cobas, negano di aver buttato giù dal palco il segretario della FIOM Gianni Rinaldini. Per gli autonomi è caduto nel parapiglia e lo abbiamo aiutato. Era concordato che avremmo parlato, ma qualche confederale lo ha impedito. Una tesi contestata da tutte le forze politiche e sociali. Per il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia è un episodio di intolleranza che ci riporta indietro negli anni, a stagioni che speravamo dimenticate per sempre. Io faccio un appello, noi dobbiamo unire tutte le forze sane del paese ed evitare che si inneschi il conflitto sociale. Il nostro è un paese di gente responsabile, noi dobbiamo isolare queste frange violente. Reagiscono anche i sindacati, per Guglielmo Epifani CGL si tratta di estremismo sgangherato, ma la situazione può peggiorare e su questo fronte si schiera anche il segretario del Partito Democratico Dario Franceschini. L'unico modo per prevenire concretamente le tensioni sociali è esattamente quello di intervenire con misure concrete, con misure efficaci. Questo è il dovere di chi governa, soprattutto di chi governa. Una voce fuori dal coro, quella di Fabrizio Cicchitto, PDL, per il quale la colpa è della CGL che semina vento e raccoglie tempesta. Cicchitto, l'abbiamo appena riascoltato, in colpa addirittura la CGL per quello che è successo. La CGL, insomma, per Cicchitto è colpevole di creare un clima che poi sfocia in episodi come quello accaduto al povero Rinaldini. E naturalmente il leader del più grande sindacato italiano, Guglielmo Epifani, chiamato in causa, non si sottrae a dire la sua sull'accaduto, come ci spiega Paola Cavadi. L'aggressione al segretario della FIOM Rinaldini è un atto grave che svia l'attenzione dal vero problema, cioè la perdita di posti di lavoro. Il segretario della CGL Epifani ieri è tornato sui fatti di Torino, definendo l'accaduto un gesto circoscritto a un gruppetto di persone. Per il segretario della CGL il malessere sociale c'è, spetta al governo dare le risposte più appropriate, a partire da un tavolo sulla politica politica industriale che sappia anche mettere in discussione le scelte delle imprese. E sul tema caldo dei salari italiani, al 23° posto della classifica dell'OCSE è arrivato un nuovo affondo del ministro del welfare Sacconi. Il PDL, ha detto, è il vero partito dei lavoratori. Io accuso la sinistra italiana dei bassi salari generati dagli anni 90, prigioniera di borghesie parassitarie e ciniche che hanno teorizzato la moderazione salariale come modo di entrare in Europa. Per il leader della CGIL, invece, i dati dell'OCSE sono una conferma di quanto il sindacato dice ormai da tempo. Negli ultimi anni il fisco si mangia quasi tutta la produttività che va al lavoro. Per questo abbiamo chiesto il drenaggio fiscale, l'ampliamento delle detrazioni su lavoro dipendente e su pensioni. Per completezza di informazione vi sottolineo quanto poi ha detto anche il servizio di Paola Cavadi, che fa riferimento alle statistiche dell'OCSE che vengono pubblicate domenica, classifiche impietose che addirittura pongono l'Italia al 23° posto sui 30 paesi poi membri dell'OCSE, quindi non è una posizione sicuramente nobilissima nella classifica dei redditi. Un reddito netto medio annuo per un italiano è di 21.374 euro. Intanto a Torino gli animi non si placano, anzi lunedì una nuova miccia viene innescata dal cosiddetto G8 dei rettori. Sentiamo la cronaca di Valeria De Rosa nel GR delle 7 di martedì. Già da qualche giorno a Torino intorno alle facoltà si respirava tensione. Il G8 per l'università sostenibile ha ricompattato l'onda e venerdì, trovando chiuse le porte di Palazzo Nuovo, sede delle discipline umanistiche, i ragazzi hanno dato vita a una manifestazione spontanea, occupando per alcune ore il rettorato. Ieri mattina davanti al Castello del Valentino, sede del Vertice, c'erano un centinaio di studenti. Hanno trovato le forze dell'ordine in assetto antisommossa. È partita una carica di alleggerimento, come si dice in gergo, e i ragazzi hanno risposto lanciando uova e lacrimogeni. Una seconda piccola carica più tardi in piazza Carlo Felice. Le immagini raccontano di modi bruschi, spintoni, urla e cori. Si temevano infiltrazioni, ma gli studenti hanno fatto sapere che nessuno si è infiltrato. Restano i timori per la manifestazione nazionale di oggi. Sono arrivati studenti da tutta Italia e anche dall'estero, mentre Torino attraversa un momento delicato. Prima le scritte contro il direttore della stampa calabresi, firmate dalla Federazione Anarchica, poi la manifestazione degli operai Fiat con il segretario della FIOM Rinaldini spintonato dai delegati Sly Cobas, i cattivi, quelli che hanno relazioni difficili anche con le altre sigle sindacali. L'apice degli scontri viene raggiunto in realtà martedì, come ci spiega Silvia Alparone, corrispondente per Radio 24 da Torino. Sono stati 24 in totale i feriti, tutti tra le forze dell'ordine, negli scontri con cui si è conclusa la manifestazione degli studenti contro il G8 dell'università. L'incontro fra i rappresentanti di circa 200 atenei d'Europa è terminata con la stesura di una dichiarazione sulla necessaria centralità dell'università nell'impegno per uno sviluppo sostenibile, che verrà portata al G8 dell'Aquila. Mentre dentro il Castello del Valentino si elaborava il documento finale, fuori polizia e studenti si fronteggiavano al termine del corteo che ha attraversato la città in uno scontro con lacrimogeni, petardi e qualche bomba carta. La carica della polizia ha poi disperso i manifestanti, qualche migliaio, che arrivavano da diverse città italiane. L'ottavo giorno. Domenica. Ci siamo fermati prima della pausa sulle note amare, tese e direi per niente risolte di Torino ed ora invece ci distraiamo con qualcosa di molto più leggero e dolce, almeno per i tifosi dell'Inter. Infatti parliamo di calcio perché domenica viene santificato lo scudetto dell'Inter, l'ennesimo in questo scorcio di inizio millennio. In realtà il primo che porta il timbro di José Mourinho, dell'allenatore portoghese tanto amato e tanto odiato nel nostro paese. Ma se domenica sera è il giorno della grande festa a San Siro per i nerazzurri, in realtà la conquista aritmetica dello scudetto era già arrivata il giorno prima, cioè sabato, grazie alla sconfitta del Milan nell'anticipo a Udine per 2-1. Giovanni Capuano. Paolo Bonolis, speaker d'eccezione. San Siro pieno come fosse un derby, colorato di bianco, rosso, verde. Voglia di fare festa, giro di campo alla fine, fuochi d'artificio, applausi e sfottò nel mirino di cori e striscioni proprio loro. I cugini, la Juventus, i nemici lasciati a zero titoli, in una stagione in cui a Mourinho è riuscito davvero quasi tutto, anche battere il Siena 3-0 nella notte dell'apoteosi. Sì, era importante vincere, penso, perché era una festa senza grande senso se non si vince la partita. I ragazzi hanno fatto una partita seria, non hanno scherzato. Notte di feste di fantasmi, come il possibile addio di Ibrahimovic, acclamato dalla gente, pure nervoso, con tanto di battibecco per un cambio negato. Ma del futuro ci sarà tempo per parlare da domani. L'Inter si gode scudetto e vittoria firmata da Cambiasso, Balotelli e Ibrahimovic, senza lasciare nulla indietro. 3-0, da veri cannibali. In realtà l'Inter anche nel momento della festa non si smentisce, subito circolano voci incontrollate sul futuro di Ibrahimovic che potrebbe lasciare Milano e anche dell'allenatore Mourinho, corteggiato addirittura dal Real Madrid. E Mourinho ha detto che al 99,9%, chissà se questo 0,1% mette in ansia i tifosi dell'Inter, resterà comunque a Milano sulla panchina nerazzurra. Comunque al di là dell'Inter c'è chi sta decisamente peggio, cioè la Juventus, che lunedì addirittura esonera l'allenatore, cosa che non accadeva dalla notte dei tempi. Dario Ricci. 57 giorni senza vittorie, 6 pareggi e una sconfitta in 2 mesi, il terzo posto a rischio sotto l'assalto della Fiorentina. Ma se la Juventus torna a esonerare un allenatore dopo 40 anni, l'ultimo fu Carniglia, e a 2 giornate dal termine, i motivi non possono essere solo nei numeri. Segno che il legame giallogoro tra Claudio Ranieri, società e spogliatoio si è spezzato del tutto, e non da ieri. Al tecnico romano va di fatto di traverso la famosa focaccia mangiata dalla D bianconero blanche con Marcello Lippi, pranzo che 20 giorni fa ha aperto ufficialmente la corsa alla panchina della vecchia signora. Ora a traghettare la sgangherata barca bianconera verso il mare di Euro della Champions sarà Ciro Ferrara, che di Lippi è alter ego e braccio destro in nazionale. Io credo che sia di fondamentale importanza far capire ai giocatori il momento difficile che comunque la società sta attraversando, che la squadra sta attraversando, e quindi lavorare più che altro su quelle che sono le motivazioni. Poi si penserà al prossimo anno. Col ritorno di Cannavaro e l'altro ex Antonio Conte in pole position per la panchina, il futuro bianconero già sa tanto di Amarcord. In questa settimana ci sarebbe da raccontare il Giro d'Italia con le sue storie, le sue tappe anche di montagna gloriose che ricordano i tempi di Coppi e di Bartali, però noi ci concentriamo invece sulla Formula 1 perché siamo di fronte alla stagione più stramba forse che si ricordi, avvelenata da polemiche, con delle regole che peraltro cambiano in continuazione. E in tutto questo gran calderone la Ferrari addirittura medita di lasciare la Formula 1. E personalmente immaginare un Gran Premio di Monte Carlo che si disputa domani nello straordinario circuito monegasco senza la Ferrari è davvero triste e persino direi assurdo. Sentiamo però cosa succede mercoledì nel braccio di ferro tra Federazione dell'Auto e Maranello. Ci racconta tutto Dario Ricci. I tifosi saranno sempre vicini, se siamo qui anche siamo anche per loro, quindi non solo quelli della Ferrari ma quelli delle altre squadre che pensano uguale. Sanno già di addio le parole di Felipe Massa dai box di Monte Carlo. Il tribunale parigino dà torto alla Ferrari. Via libera ai limiti di budget e ai regolamenti tecnici differenziati voluti dal presidente della FIA Mosley perché, secondo i giudici, se è vero che Maranello ha un diritto di veto, avrebbe potuto esercitarlo prima. Cavilli legali, ma la partita, quella vera, si giocherà in questi giorni proprio a margine del GP di Monaco ed è ancora aperta. In programma un vertice dei costruttori. Obiettivo? Trovare un compromesso con Mosley sul tetto di spese e uniformare le regole tecniche, facendo slittare il termine per l'iscrizione alla stagione 2010, fissato ora al 29 maggio. Senza accordo, Ferrari, Renault, Toyota e Red Bull sono pronte a lasciare e a creare un mondiale alternativo. In Formula 1 subentrerebbero team come Lola, Formtech e Campos. Tutt'altra storia, insomma, rispetto al fascino del cavallino rampante. Lunedì. E adesso ci concentriamo su una ricca pagina di esteri che ci porterà davvero in giro per il mondo. Cominciamo da molto lontano, dalla remota Asia, perché da un lato in India finiscono le elezioni fiume durate settimane in questa straordinaria, complessa democrazia da 1 miliardo di abitanti. Le elezioni vengono vinte da Sonia Gandhi, quindi viene sconfitta l'ultradestra indù. Intanto nelle stesse ore, e non troppo lontano dall'India, in Sri Lanka si chiude una pagina tormentata, sanguinosa e che addirittura perdurava da decenni. Sentiamo in diretta nel GR delle 13 di lunedì, quindi nel pieno evolversi dei fatti, Marco Masciaga. Beh, la guerra sì, avete ragione, è ufficialmente finita con la morte oggi di Vellupillai Prabhakaran, che è il leader storico delle Tigri Tamil. Si chiude una stagione che, come dicevate voi, è durata 25 anni e qualche mese ed è costata la vita almeno a 70.000 persone. Secondo la TV di Stato, Prabhakaran sarebbe stato ucciso mentre tentava di fuggire dalla zona dei combattimenti su un'ambulanza, ma queste sono circostanze assolutamente impossibili da verificare perché da mesi il governo impedisce alla stampa indipendente di poter seguire le operazioni militari. Ora l'emergenza diventa quella dei rifugiati, il governo dovrà prendersi carico di decine di migliaia di persone che sono state strappate ai propri villaggi, e sarà questo un test chiave per capire quanta volontà c'è di risolvere anche politicamente, non soltanto militarmente, la questione aperta della minoranza tamil. Restiamo adesso ancora nell'area del sud-est asiatico, nella quale si consumano tragedie terribili, direi, giorno dopo giorno. Un esempio su tutti è la Birmania, ribattezzata poi dalla giunta militare Myanmar. Lunedì inizia a nord di Rangoon, la città più importante del paese, il processo contro la leader dell'opposizione democratica Aung San Suu Kyi, tra l'altro premio Nobel diversi anni fa. La San Suu Kyi è accusata di aver violato gli obblighi degli arresti domiciliari, lasciando entrare in casa sua un presunto attivista americano. Il processo, che prima viene aperto a un gruppo di giornalisti stranieri, poi questi giornalisti stranieri non riescono più ad entrare a seguire le udienze, subito assume i contorni della farsa. Proprio lunedì Cristina Carpinelli ha intervistato Anna Roberts, che è una dissidente birmana che ha trovato rifugio a Londra. Quello che è chiaro è che il regime sta usando il pretesto di questa intrusione nella casa della leader birmana per poter mantenere in stato di detenzione Aung San Suu Kyi ed essere sicuro che vi resti per il prossimo anno, e dunque che la sua figura non provochi problemi per la tornata elettorale dell'anno prossimo. Questo processo è dunque una farsa, secondo lei? Lei in questo momento ha gli arresti domiciliari, e quello che è chiaro è che il regime birmano non vuole arrivare al 27 di maggio, data della sua liberazione. Gli uomini del regime sono arrabbiati e preoccupati soprattutto per la grande solidarietà internazionale che Aung San Suu Kyi sta ricevendo. Non sono capaci di contrastare quest'onda e temono che potrebbe la sua liberazione portare ad un vero e proprio terremoto elettorale e al crollo del regime il prossimo anno. Allora quello che dobbiamo fare è non soltanto pressioni politiche sulla Birmania, ma anche gesti forti in modo che Aung San Suu Kyi e tutti i detenuti politici birmani vengano liberati. E veniamo a Barack Obama. L'agenda del presidente americano è sempre fit, sia sul fronte interno che internazionale. In particolare lunedì incontra Washington, ed è la prima volta da quando è presidente americano, il premier israeliano Netanyahu. Giudizio quasi unanime della stampa, sia israeliana che internazionale, faccia a faccia gelido. Sentiamo Sergio Nava. Barack Obama accelera sulla soluzione a due stati coesistenti fianco a fianco per mettere la parola fine al conflitto israelo-palestinese. Il suo interlocutore, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, a Washington per la sua prima visita dopo l'elezione, risponde dicendosi pronto ad avviare negoziati di pace immediatamente con l'ANP, ma non cita mai l'ipotesi della creazione di uno stato palestinese, limitandosi ad affermare che Gerusalemme non intende governare i palestinesi e chiede anzi a Ramallah il riconoscimento dello stato ebraico. Finisce così con la sensazione di una visione comune, segnata però da importanti differenze, l'incontro tra Obama e Netanyahu, con il presidente americano a sottolineare come la richiesta di pace da parte di Israele non possa prescindere dal blocco di qualsiasi espansione degli insediamenti in Cisgiordania, mentre l'ANP apre alle dichiarazioni proprio di Obama ma boccia come deludenti quelle di Netanyahu. In attesa dei prossimi incontri alla Casa Bianca, dove giungeranno a breve il presidente palestinese Abu Mazen e quello egiziano Hosni Mubarak, a tenere banco nell'incontro di ieri è stata anche la questione del nucleare iraniano. Obama si è detto contrario a scadenze artificiali per Teheran, ma gradisce progressi entro l'anno, altrimenti Washington non esclude nuove sanzioni. Per Obama il passaggio forse più importante della settimana arriva giovedì. Infatti il presidente americano parla per quasi un'ora, quindi una lunghezza davvero inedita per lui, di guerra al terrorismo e della prigione di Guantanamo. E tra l'altro ricordiamo che Obama, appena diventato presidente, aveva promesso la chiusura in tempi rapidissimi di Guantanamo. Poi in realtà il sentiero per arrivare alla chiusura della prigione cubana è stato via via lastricato di ostacoli e di paletti che tra l'altro gli hanno anche messo i suoi democratici, cioè il suo partito, al congresso. Da notare tra l'altro che il discorso di Obama era fissato per giovedì alle 16.10 ora italiana. Poi alle 16.45, quindi una mezz'oretta dopo, doveva parlare Dick Cheney, l'ex segretario di Stato protagonista della guerra al terrore di Bush. Bene, Obama ha sorprendentemente, ma poi neanche tanto, ritardato di almeno 20 minuti il suo intervento per oscurare Cheney, che così è stato costretto a sua volta a fermarsi ad aspettare che Obama finisse, per poi cominciare anche lui il suo discorso e avere garantita la copertura delle televisioni americane. Comunque anche da queste schermaglie direi che si può giudicare e intuire gli sviluppi della politica americana. Sentiamo però che cosa ha detto detto di importante e di significativo Obama su Guantanamo con Cristina Balotelli. Nel giorno in cui la polizia di New York ha arrestato 4 terroristi che pianificavano di far saltare in aria 2 sinagoghe nel Bronx, si è consumato il duello a distanza tra il presidente Barack Obama e l'ex amministrazione sui metodi della lotta al terrorismo. Ammettendo che la minaccia di Al-Qaeda è tuttora tale per gli americani dal momento che la rete del terrorismo globale continua a pianificare attacchi contro l'America, Obama si è però detto certo di poterla sconfiggere e ha concesso che alcune decisioni della precedente amministrazione sono state prese con il desiderio sincero di difendere il paese. Rather than keeping us safer, the prison at Guantanamo has weakened American national security. Parlando di Guantanamo, che ha promesso di chiudere entro il gennaio 2010, Obama lo ha definito un esperimento fallito che ci ha lasciato una valanga di problemi legali. Tuttavia, nessun detenuto che rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale sarà messo in libertà dagli Stati Uniti. Gli attuali 240 prigionieri saranno divisi in 5 categorie e processati in tribunali ordinari o militari speciali, oppure trasferiti all'estero, una cinquantina, o in carceri di massima sicurezza americane. L'ottavo giorno, martedì. Si avvicinano le elezioni europee, ormai mancano 2 settimane e i 2 schieramenti, maggioranza e opposizione, e anche gli altri partiti, per la verità, chiamati alla competizione elettorale, sfoderano le sciabole. Anche perché gli spunti per affondare nel mare delle polemiche e delle accuse, nel quale purtroppo la politica italiana sguazza a meraviglia, non mancano. Martedì infatti arrivano le motivazioni della sentenza Mills, l'avvocato accusato e condannato in primo grado per corruzione e ricollegato nel processo proprio al premier Berlusconi. E così Berlusconi, dopo il divorzio da Veronica, tutta la polemica sulle veline, la storia di Noemi, sulla quale peraltro Repubblica continua a premere sull'acceleratore, arriva una nuova grana per il premier che tra l'altro può trovare invece riscontri incoraggianti negli ultimi sondaggi. Tutti i dettagli del ginepraio Mills con Stefano Totolo prima ed Elisabetta Fiorito poi. I giudici di Milano depositano le motivazioni della sentenza del 17 febbraio scorso che ha portato alla condanna di David Mills. Scrivono che l'avvocato inglese ha agito da falso testimone per consentire a Silvio Berlusconi e al gruppo Fininvest l'impunità dalle accuse o almeno il mantenimento degli ingenti profitti realizzati attraverso operazioni finanziarie illecite. È per questo che Mills è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione, condannato perché corrotto. L'accusa del PM Fabio De Pasquale parla di $600,000 che Mills avrebbe ricevuto dall'entourage di Berlusconi nel 98 per rilasciare dichiarazioni reticenti in 2 vecchi processi milanesi, quello sulla corruzione della Guardia di Finanza e il processo Oliberian. La sorte della posizione del premier coimputato nel processo è sospesa. La consulta deve decidere sulla legittimità del lodo Alfano. Non c'è stato nessun versamento di nessuno al signor Mills. Avevamo ricusato questo giudice che in tutte le situazioni si è messo in piazza per criticare l'operato del governo. È una cosa scandalosa. Vedrete cosa dirò in Parlamento. Aspetta fino a sera il premier Silvio Berlusconi per commentare la sentenza. Mills ribadisce che riferirà in Parlamento, attacca i magistrati di essere schierati politicamente. Berlusconi interviene dall'Aquila convinto che quando il processo riprenderà ci sarà l'assoluzione. L'opposizione compatta chiede invece che il premier si sottoponga a processo. Il segretario del Partito Democratico Dario Franceschini. La sentenza dimostra in modo purtroppo incontestabile il coinvolgimento del Presidente del Consiglio. Io penso che l'unico modo di riattaccare quel cartello, la legge uguale per tutti, nelle aule dei tribunali, sia che Berlusconi venga in Parlamento, ma venga a dire: io rinuncio ai privilegi del lodo Alfano. Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori va anche oltre e chiede al Premier di farsi processare o di dimettersi, ma la maggioranza fa quadrato attorno al Presidente del Consiglio e sostiene il lodo Alfano, la legge che prevede la sospensione dei processi per le più alte cariche dello Stato. Per Niccolò Ghedini, avvocato del Premier e deputato del Popolo della Libertà, se Berlusconi rinunciasse all'immunità, condannerebbe il Paese all'ingovernabilità. Come se non fosse già sufficiente e bello carico il carrello delle polemiche e delle divisioni tra maggioranza e opposizione, mercoledì spunta un nuovo piatto avvelenato nella nostra politica. Mi sto riferendo al piatto delle nomine RAI, nomine per capirci che secondo l'opposizione sono state decise tempo fa a Palazzo Grazioli, cioè a casa di Berlusconi. Sentiamo Vincenzo Miglietta. Figure di alta professionalità le definisce la maggioranza, sono nomine irricevibili, replica l'opposizione. Il mondo politico si spacca sulle scelte di Viale Mazzini, lo stesso CDA della RAI arriva al via libera senza la presenza dei consiglieri del centrosinistra. Passano comunque su proposta del direttore generale Masi e con la firma anche del presidente della RAI Garimberti i nomi già circolati: Augusto Minzolini al TG1, Mauro Mazza RAI 1 e poi 4 vice direttori generali: Gianfranco Comanducci, Lorenza Lei, Giancarlo Leone e Antonio Marano. Il centrodestra con queste nomine occupa la TV di Stato, accusa il Partito Democratico. Berlusconi vuole il controllo totale delle televisioni, aggiunge Franceschini. Evidentemente il Presidente del Consiglio non era sazio del controllo della comunicazione che ha e vuole estenderlo. Non è lottizzazione ma vera e propria occupazione, commenta Casini, UDC. Dal Popolo della Libertà replica il capogruppo Bocchino. L'opposizione protesta perché vorrebbe lottizzare la RAI anche quando perde le elezioni. Le nomine RAI rispondono a scelte di alto profilo, commentano Cicchitto e il ministro La Russa. Giovedì Berlusconi va all'attacco, approfitta della tribuna di Confindustria, anche se per il momento rimanda l'annunciato arrivo in Parlamento per dire la sua ad aule riunite. E da un lato il premier definisce estremisti i giudici della sentenza Mills, gli risponde Luca Palamara, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che dice che questo clima di scontro fa male al paese. Poi c'è l'affondo sul Parlamento, invece, che si trascina anche ieri e che ancora una volta divide il cavaliere da Fini. Sentiamo la cronaca di un giovedì che possiamo definire pirotecnico con Elisabetta Fiorito. L'assemblea pletorica è inutile, i parlamentari vanno ridotti a 100, ma non si può chiedere a Tacchini e Capponi di anticipare il Natale. Non va per il tenero il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in Confindustria. Non è la prima volta che il premier attacca il Parlamento e non è la prima volta che immediata arriva la replica del presidente della Camera Gianfranco Fini. Il Parlamento, quando riesce ad operare attraverso procedure aperte, è e viene percepito anche dalla società come un interlocutore ineludibile, qualificato e impegnato. Credo si possa dire che l'iter della legge sul federalismo fiscale smentisce la tesi dell'inevitabile tramonto del ruolo del Parlamento come legislatore. L'opposizione è dura e compatta. Il segretario del Partito Democratico Dario Franceschini replica così al premier. Ormai è chiaro che si crede di essere Napoleone e purtroppo non è un signore di passaggio ma è il Presidente del Consiglio e quindi è prudente non riderci sopra. Con i suoi comportamenti dimostra di credersi sopra la legge e sopra la morale. Per Pier Ferdinando Casini UDC, che Berlusconi pensi che sia un ente inutile è noto, basta vedere chi ha mandato in Parlamento. Mercoledì è il gran giorno delle offerte ufficiali per l'acquisto di Opel. In gara, lo sapete benissimo, c'è anche la nostra Fiat, appena sbarcata negli Stati Uniti grazie all'accordo con Chrysler e, secondo alcuni giornali asiatici, peraltro ripresi anche dai nostri quotidiani, proiettata persino verso la Cina, lontana ma preziosissima direi per il presente e futuro mercato dell'auto. Dalla Germania sentiamo Beda Romano e poi l'analisi da Milano di Andrea Malan. Tre sono le offerte che la General Motors ha ricevuto ieri per la filiale europea Opel. Oltre a quella di Fiat, anche quella del produttore di componenti Magna e quella dell'investitore americano Ripplewood. Le offerte saranno valutate ora, oltre che dalla casa americana, anche dal governo federale tedesco. Con ogni probabilità, infatti, l'esecutivo sarà chiamato a usare i soldi del contribuente per finanziare l'azienda in attesa di una firma definitiva con l'acquirente finale. La partita ieri sera appariva molto aperta. Il governo tedesco è spaccato, socialdemocratici e sindacati si oppongono a Fiat per paura di esuberi. D'altro canto, molti commentatori tedeschi sono arrivati alla conclusione che l'offerta della casa automobilistica italiana è quella più strutturata, almeno da un punto di vista industriale. La speranza è che una decisione finale possa giungere rapidamente, anche se c'è il rischio che possa trascinarsi, complice un governo staccato a 4 mesi dal voto federale. La cessione delle attività europee di General Motors rischia di essere ancora più complicata del salvataggio della casa madre, con 5 aziende e 3 governi in gioco, senza contare quello di Londra e il suo interesse per il destino della Vauxhall. Dopo la presentazione delle offerte ieri da parte di Fiat, Magna e RHJ, il governo tedesco ha promesso una scelta, forse già entro la fine del mese, ma quello americano, che proprio a fine mese rischia di diventare azionista di General Motors, non è ancora d'accordo sui dettagli della separazione. E anche ai politici di Berlino, del resto, non dispiacerebbe rinviare a dopo le elezioni politiche di settembre una scelta potenzialmente esplosiva. Fiat può permettersi di restare alla finestra, in fondo chi ci rimetterebbe di più nel tirare in lungo i negoziati è proprio la Opel. Sergio Marchionne, del resto, avrà già abbastanza da fare nell'avviare la collaborazione con Chrysler. Il rischio però è che un allungamento dei tempi renda ancora più dolorose le razionalizzazioni che sia Marchionne che il suo omologo Carpenter Forst della Opel ritengono inevitabili. La Fiat riuscirà a spuntarla? Questa è la domanda delle domande. Io non mi azzardo a dare nessuna risposta perché veramente la partita è molto complicata. Ho capito che ci vuole pazienza, anche se poi il tempo a disposizione non è poi tantissimo. E poi bisogna fare i conti con le voci di corridoio e le anticipazioni dei giornali. Sentiamo allora il giovedì della Fiat in questo servizio di Valeria De Rosa. Dettagli ufficiali scarseggiano ancora, le indiscrezioni di stampa invece abbondano. Secondo i giornali tedeschi, la Fiat punterebbe a chiedere a Berlino garanzie per 7 miliardi di euro e avrebbe intenzione di tagliare 18.000 posti di lavoro, anche in impianti in Italia. Troppo, o forse troppo rischiose queste voci. Fatto sta che è lo stesso amministratore delegato Marchionne a rispondere allo Spiegel Online. Nessuna fabbrica Opel in Germania verrà chiusa se la Fiat acquisterà la casa automobilistica. La produzione verrà tagliata del 20%, ma questo non significa, ha detto Marchionne, che l'occupazione verrà ridotta del 20%. Però, sempre secondo lo Spiegel, GM preferirebbe l'offerta di Magna. In seconda battuta quella di Ripplewood, mentre il lingotto sarebbe solo l'ultima scelta. Sulla candidatura della Fiat peserebbe la quota rilevata in Chrysler, concorrente di GM, e il naufragio dell'alleanza con i torinesi nel 2005. Marchionne però non demorde, convinto che Torino abbia carte da giocare. Sugli stabilimenti, ha aggiunto il presidente Montezemolo, ci sarà tempo di riflettere dopo l'eventuale accordo su Opel. Un'affermazione che ha messo sul piede di guerra i sindacati italiani. Non possiamo fare sconti, ha fatto sapere la CGIL. Anche ieri è tutto un rincorrersi di voci sull'asse Fiat-Opel. La casa torinese ci tiene a precisare che saranno meno di 10.000 gli esuberi in Europa, mentre il governo tedesco per ora fa melina a centrocampo, per usare un gergo calcistico, e dice che non ci sono attualmente favoriti nella corsa all'acquisizione di Opel. Sul versante dell'industria dell'auto interviene anche Obama in settimana, che dopo gli applausi e qualche fischio, però preso con dignità, diciamo così, all'Università Cattolica di Notre Dame, lancia la sua personale sfida per ridurre le emissioni di gas e rivoluzionare così il mondo delle quattro ruote americano. Sentiamo Sergio Nava. Un momento storico, così Barack Obama ha definito l'annuncio dei nuovi standard federali per le emissioni di gas inquinanti dalle autovetture. Un piano articolato in 5 anni che entrerà in vigore nel 2012 e che porterà, una volta completato, a un taglio delle emissioni di biossido di carbonio pari al 30% e a un limite ai consumi equivalente a 35 miglia e mezzo per gallone di benzina, poco più di 15 km al litro. Il piano, nelle intenzioni, dovrebbe contribuire a far risparmiare quasi 2 miliardi di barili di petrolio entro il 2016, come mettere fuori circolazione 177 milioni di auto. Gli effetti si faranno sentire anche sul costo delle automobili, che dovrebbe lievitare di $1,300. The status quo is no longer acceptable. Lo status quo non è più accettabile, ha precisato Obama, riferendosi a un sistema dove la dipendenza del paese dall'import petrolifero pesa molto sulla bilancia commerciale e su quella geopolitica. L'obiettivo di lungo periodo resta quello dell'indipendenza energetica. La misura introduce soprattutto un unico standard nazionale, superando la giungla di regole imposte dai vari stati e dalle agenzie federali. La mossa di Obama, l'ennesima in controtendenza rispetto all'era Bush, non sarà osteggiata dalle case automobilistiche, molte delle quali dipendono ormai dagli aiuti statali per poter sopravvivere. L'ottavo giorno. Giovedì. Confindustria è riunita in assemblea a seguire i lavori per Radio 24, in particolare l'intervento della presidente Emma Marcegaglia. C'era Vincenzo Miglietta. Non abbassare la guardia sulla crisi, reagire alla peggiore congiuntura internazionale attraverso le riforme. Invita a non perdere tempo la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Solo agendo rapidamente, dice il leader degli industriali, l'Italia sarà in grado di cogliere la ripresa non appena si ripresenterà sulla scena internazionale. Ma quali le priorità? Pensioni, giustizia, università, pubblica amministrazione, il capitolo subito le infrastrutture. Per sostenere l'economia in questo momento difficile bisogna che si proceda, si stanzino e si rendano disponibili da subito le risorse necessarie e soprattutto si aprano finalmente i cantieri. Questa è una nostra richiesta importante, perché questo può aiutare la ripresa della domanda. Fare presto dunque l'invito di Confindustria ad istituzioni e parti sociali, da qui l'appello al governo. Io mi rivolgo a lei, Presidente Berlusconi. Il consenso che lei ha saputo conquistarsi è un patrimonio politico straordinario. Allora, lo metta a frutto, lo usi per fare le riforme, ma lo faccia adesso, perché questo è il momento delle riforme, lo faccia adesso, Presidente Berlusconi. Oltre che per uscire dalla crisi, dice ancora la Presidente Marcegaglia, la nuova stagione riformista è essenziale per evitare rischi di tensioni sociali, ma dove trovare le risorse vanno tagliati spesa pubblica improduttiva ed enti inutili, che costituiscono per Confindustria un vero scandalo nazionale. Per tornare a crescere, dice infine la Marcegaglia, un ruolo fondamentale tocca alle imprese che hanno però oggi bisogno dell'alleanza del sistema creditizio. Io voglio chiedere alle banche di non abbandonare le imprese in questi momenti difficili. Qui noi ci stiamo giocando il futuro del paese. Come sempre sono tanti i numeri e le notizie su cui ragionare a livello economico negli ultimi 7 giorni. Ieri ad esempio sono usciti i dati Istat sulle vendite al dettaglio, che segnano un calo massiccio del 5,2% su base annua, però anche una leggera crescita dello 0,1% su base mensile, tanto che il Centro Studi di Confindustria parla di germogli di ripresa. Ma tra tutte le notizie economiche della settimana abbiamo scelto il De Profundis del PIL giapponese, come ci spiega da Tokyo Stefano Carrer. La seconda economia mondiale ha accusato la peggiore contrazione del dopoguerra e il risultato più negativo tra quello dei paesi industrializzati. Il prodotto interno lordo del Giappone nel primo trimestre di quest'anno si è ridotto del 4% rispetto al trimestre precedente, pari a un ritmo annualizzato del meno 15,2%. Un dato che si compara con il meno 2,5% dell'Eurozona e il meno 1,6% degli Stati Uniti. Si tratta del quarto trimestre consecutivo di contrazione per l'economia giapponese, il che segnala la più lunga, oltre che la più profonda, recessione del dopoguerra. Il crollo della domanda estera di beni e servizi giapponese ha provocato un forte calo delle esportazioni, della produzione e degli investimenti delle imprese, il che a sua volta ha avuto effetti pesanti sui salari, sul mercato del lavoro e quindi sui consumi interni. Il risvolto relativamente positivo è che molti analisti si attendevano un dato ancora peggiore, quindi borsa e yen non hanno reagito negativamente. Secondo vari osservatori, l'economia giapponese potrebbe aver toccato il picco negativo nel primo trimestre e dovrebbe riprendersi nei prossimi trimestri, forse già a partire da quello in corso. Ma il paese continua a dipendere in modo significativo dalle esportazioni e per una ripresa consistente della sua economia appare essenziale una ripresa più generalizzata dell'economia globale. Venerdì. Nella parte finale dell'ottavo giorno di oggi non possiamo ignorare la complessa questione degli immigrati. Sono ormai settimane che si parla di respingimenti, che ci sono accese discussioni e anche approvazioni in aula del pacchetto sicurezza, che ha norme specifiche che riguardano proprio gli stranieri. Sentiamo il punto di sabato, un sabato davvero rovente, mi riferisco a sabato scorso, con Sergio Nava. Sono stati il volto diplomatico di Frattini e l'attacco durissimo di La Russa a segnare un'altra giornata di polemiche tra Italia e ONU sul tema immigrazione. Franco Frattini, ministro degli esteri, ha ribadito di voler cercare in Europa la soluzione al problema, portando il tema immigrazione all'esame del Consiglio europeo di giugno, l'ultimo del semestre ceco. Frattini, che pure per quasi 4 anni ha gestito in prima persona come commissario europeo il delicato portafoglio dell'immigrazione, aveva accusato proprio le istituzioni comunitarie di fare poco per risolvere il problema. Ma mentre il responsabile della Farnesina intensificava l'azione diplomatica per portare il problema in Europa, arrivava il durissimo attacco del suo collega alla difesa Ignazio La Russa contro una delle istituzioni internazionali più critiche negli ultimi giorni verso i rimpatri avviati dall'Italia. Io accuso questo sedicente comitato, come si chiama? Questo che non conta un fico secco, di essere o inumano o fiancheggiatore di chi vuole violare la legge. A detta di La Russa, a contare un fico secco sarebbe l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, organismo delle Nazioni Unite incaricato di far rispettare, tra le altre cose, la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. La Russa ha attaccato anche Laura Boldrini, che di questo organismo è rappresentante in Italia, definendola o disumana o criminale. In questa grande discussione sull'immigrazione e sull'integrazione, cito rapidamente la querelle che si scatena in settimana attorno alla scuola elementare romana Carlo Pisacane, nella quale il 90% degli alunni iscritti è straniero, e quindi arriva la proposta della direzione scolastica di cambiare il nome. Addio al nostro eroe risorgimentale Pisacane. Al suo posto il nome del pedagogista giapponese Tsune Saburu, nome davvero difficile da pronunciare. Poi in realtà la situazione non è ancora definita, è intervenuto il ministro Gelmini e quindi insomma vedremo come andrà a finire questa partita interessante ma anche preoccupante dal mio punto di vista sulla scuola pisacana di Roma. Intanto Italia e ONU continuano a sfidarsi a colpi di dichiarazioni. Sentiamo il servizio di lunedì di Elisabetta Fiorito. Una polemica incomprensibile chiosa il ministro degli interni Roberto Maroni, ma intanto è di nuovo scontro tra ONU e governo. Il ministro della difesa Ignazio La Russa interviene ancora sui respingimenti. Si scusa con la portavoce dell'UNHCR, l'organismo ONU per i rifugiati, Laura Boldrini, ma spiega il governo è compatto. Non ho capito come si potesse immaginare un'azione non umanitaria da parte dei nostri marinai. Questo non mi è piaciuto e l'ho detto forse con parole forti. A replicare l'alto commissario per i rifugiati Antonio Guterres. Gli attacchi personali sono inaccettabili. Nel governo intanto un altro distinguo dopo quello del ministro degli esteri Franco Frattini. Il ministro degli interni Roberto Maroni difende l'organismo ONU per i rifugiati e il ruolo che può svolgere in Libia. Questa polemica mi pare incomprensibile e vorrei che terminasse subito, perché temo che un innalzamento dei toni possa pregiudicare in qualche modo il buon lavoro che abbiamo fatto in questi 10 mesi. Siamo quasi alla fine, manca l'ottava notizia della settimana, visto che è addirittura d'arrivo il Festival di Cannes. Domani ci saranno i premi con la Palma d'Oro e poi gli altri vincitori. Vogliamo citare Vincere, che è il film di Marco Bellocchio, che è l'unico film italiano in concorso. Ce ne parla la nostra esperta di cinema, Marta Cagnola. È stato folgorato Marco Bellocchio dalla visione di un documentario in TV. Raccontava la vita misteriosa di Ida Dal Ser, amata dal giovane Benito Mussolini e madre di Benito Albino, figlio del Duce. E alla storia del Mussolini segreto l'Italia affida le sue speranze di un successo a Cannes. Mi chiamo Ida Dal Ser, Sua Eccellenza Benito Mussolini, è mio marito. Gli applausi nella proiezione per la stampa sono stati tiepidi, ma pare che alla giuria piaccia. Il progetto era partito 2 anni fa. Non è stato facile trovare un'attrice che potesse incarnare la forza e la passione di questa donna, incapace di compromessi. La voleva di una bravura mostruosa il regista piacentino e ha trovato Giovanna Mezzogiorno. Mentre Mussolini, forte e coraggioso negli occhi della donna che lo ama, è Filippo Tini. Sei abbandonato nella miseria più nera! È certo che tutto il popolo italiano risponderà! Ancora un film ambientato negli anni del fascismo, quindi, dopo Il sangue pazzo di Marco Tullio Giordana l'anno scorso, sempre a Cannes, o Il papà di Giovanna di Pupi Avati a Venezia. Abbiamo finito anche per oggi con l'ottavo giorno. Ricordo la nostra mail ottavogiorno@radio24.it per chi ci vuole scrivere. Io ringrazio in regia Paolo Corleoni e vi do appuntamento a sabato prossimo alle 10 oppure in replica alle 23.